in primo piano. Venerdì 17 giugno, alcuni titoli di apertura: Il Sole 24 Ore, Atene, aiuti UE in due tempi. Per il Corriere della Sera, Berlusconi, non temo nessuno, la coalizione tiene. Gelo di Maroni, si vedrà a Pontida. La Stampa, il Premier, governo forte, ma il carroccio lo sfida. Per Repubblica, P4, terremoto a Palazzo Chigi. Per il Giornale, l'inchiesta, quella della P4, è il momento dei corvi, questo è il titolo. Libero, invece, il bunga bunga dell'Italia dei Valori. Una giovane disoccupata accusa il senatore Pedica e il deputato Zazzera. Mi hanno estorto sesso promettendomi lavoro che non ho mai visto. E quindi una vicenda sessuale. Messaggero, Berlusconi sfida PM e Lega. Il Fatto Quotidiano invece mette questo colloquio in prima pagina. Ti sono piaciuto da Santoro? Sì, bella figura di merda. È una telefonata del Fatto Quotidiano, rivela, tra Masi, quando è intervenuto da ex direttore generale da Anno Zero, e Bisignani, l'inquisito della vicenda P4. Quando è finita questa performance di Masi, Masi chiama Bisignani e gli chiede: ti sono piaciuto? E questa è la risposta: sì, bella figura di merda. L'Unità, il pollice di Pontida, c'è una mano con un pollice verso, quello che ha fatto Bossi, una mano verde, mano leghista, dunque il pollice di Pontida. Vabbè, come vedete c'è molta politica nei titoli di apertura. Le segnalazioni da cui voglio partire, oggi è un giorno particolare per un paese a noi non molto vicino culturalmente, anche geograficamente, vale a dire l'Arabia Saudita, perché oggi le donne è vietato guidare per le donne in Arabia Saudita, ricordiamo. Le donne hanno deciso di fare una protesta. Si sono animate utilizzando Facebook, utilizzando Twitter. Ebbene, Riyadh, velate al volante, parte la sfida ai divieti. La Stampa vi dedica due pagine, Avvenire vi dedica pagina 3. Donne saudite, rivolta al volante, il venerdì della collera corre sulle strade. Anche il Manifesto vi dedica una pagina, al volante le donne saudite sfidano il regime. È una notizia che voglio mettere proprio in primo piano perché mi sembra importante. Ricorda la Stampa che in Arabia Saudita le famiglie più ricche assumono autisti per accompagnare le donne al lavoro. I magistrati possono essere solo uomini, dunque è vietato alle donne diventare giudice. Ogni spostamento è proibito per le donne senza il permesso di un parente maschio. Per carità, vestirsi è tutto stabilito secondo norme molto rigide. Per denunciare un abuso è necessario un tutore. In alcuni casi capita che sia lo stesso abusatore. Quindi è una protesta molto significativa. Le donne oggi, mettendo la foto del re saudita sul cruscotto, molte donne decidono e decideranno in questo venerdì di mettersi al volante e sfidare così. In passato e recente sono state arrestate alcune donne che lo hanno fatto. La seconda storia che vi voglio segnalare riguarda lo sport, ma non solo, proviene dalla Stampa, pagina 49. È una storia legata a questa inchiesta del calcio scommesse. È una storia in realtà in positivo, o meglio in agrodolce. Denunciò la Combin e nessuno compra lo stopper Pisacane, racconta Nicolò Zancanna, pagina 49. Non è vero che poi sono tutti uguali di fronte alla tentazione. Io sottolineo una storia molto significativa soprattutto per lo spaccato d'Italia che proviene anche da altre inchieste. Segnatevi il nome del semi sconosciuto stopper Fabio Pisacane, 25 anni, dai quartieri spagnoli di Napoli fino a Lumezzane, col sogno di diventare forte come Cannavaro. Una onesta carriera da professionista, sempre rincorrendo attaccanti sui campi spelacchiati di B e di Lega Pro. 3 giorni prima di una partita decisiva gli arriva una telefonata di un suo vecchio dirigente. Mi chiama, racconta Pisacane, il direttore sportivo del Ravenna, Giorgio Buffone. Dobbiamo giocare proprio contro di loro. Mi saluta, prima ci gira intorno, poi va giù pesante. Mi dice in romanesco che con quei 4 soldi che mi passa il Lumezzane non posso pensare di sopravvivere. Mi offre 50.000 euro per fargli vincere la partita. 50.000 euro sono metà dello stipendio dello stopper. E io cosa faccio? Vado all'allenamento. Ma ho la testa sconvolta, ne parlo subito col mio allenatore, Davide Nicola, insieme andiamo dal direttore, dal presidente e poi denunciamo tutta la Procura federale perché stare zitti sarebbe stato comunque un reato. Ora, l'ex Il direttore generale del Ravenna si difende: no, l'ho chiamato solo per farmi consigliare il nome di un ristorante. La verità è che Fabio Pisacane dice: da quando sono bambino sogno un contratto in A, nel Napoli sarebbe il massimo, ma ogni volta che dico arrivo dai quartieri spagnoli la stessa accoglienza, mi chiedono: ma è vero che lì si gira in strada con le mitragliette? E invece ai quartieri spagnoli c'è anche molta gente onesta che lavora tutto il giorno, va a dormire con la coscienza a posto, come molti calciatori. Sicuramente si sarebbero comportati come me. Io non volevo rovinare tutto quello che era la mia immagine nel mondo del calcio. Un calcio in cui che credo possa essere pulito dove vince chi suda di più. Beh, insomma, una storia positiva sta di fatto che al momento pare si trovi senza contratto. Denunciò la Combine e nessuno compra lo stopper Pisacane. Lo trovate sulla Stampa. Allora, per quel che riguarda la politica, dai giornali siamo tutti in attesa, sembrano tutti in attesa di capire quello che succederà domenica a Pontida, dove c'è il raduno tradizionale della Lega, anche perché ieri non ha aiutato certo questo gelo sottolineato da tutti i giornali in conferenza stampa a Palazzo Chigi tra il premier Berlusconi e il ministro dell'interno Maroni della Lega. E tutti i giornali lo titolano così: il governo tiene, dice Berlusconi, e alla domanda, alla stessa domanda, Maroni ha detto così: rimando a Pontida e Berlusconi ascolterà attentamente. E beh, certo, è una frase che appunto sottolinea questo momento molto particolare tra il premier e la Lega. Per quel che riguarda Pontida, tra l'altro, il Corriere della Sera ha una rivelazione. Marco Cremonesi lo fa a pagina 3. Bossi ha scelto, parlo solo io. È la prima volta in 20 anni di Pratone, così viene chiamato il Pratone, dove si radunano i militanti della Lega, parlerà, pare, solo Umberto Bossi. Ci sarà un'introduzione breve del ministri Roberto Calderoli e Roberto Maroni. La decisione finale sarà presa invece questo pomeriggio al più tardi sabato nella sede della Lega in via Bellerio, ma pare orientata a questa: parlerà solo Umberto Bossi. Questo scrive il Corriere per sottolineare la consustanzialità di Umberto Bossi e la Lega. E tra l'altro ieri Marco Cremonesi racconta di questo momento eclatante, non solo quello di Maroni che ha detto aspettiamo Pontida davanti a Berlusconi, ma anche Umberto Bossi quando è uscito da Montecitorio, i cronisti gli chiedono sulla tenuta del governo e lui ha fatto questo pollice verso, no? Ha mostrato la mano, ha fatto il pollice verso. Subito la gente, i giornalisti hanno interpretato che vuol dire, cioè il governo cade. Poi dopo c'è stata la precisazione da parte della Lega: non si riferiva alla salute del governo quel pollice verso, ma intendeva rappresentare ai giornalisti che Bossi non avrebbe parlato. Vabbè, sta di fatto che questi sono segnali della Lega, tanto che l'Unità mette in prima pagina, come ho ricordato prima, questo pollice di Pontida, una mano disegnata tutta dipinta di verde, il colore della Lega, con il pollice verso. Sta di fatto che insieme a Pontida c'è tutta questa vicenda della P4, come è stata definita. Oggi, se prendete i giornali, ci sono ancora paginate e paginate di questa inchiesta di Napoli che ha coinvolto Luigi Bisignani, definito da molti giornalisti faccendiere, che ha coinvolto un deputato, coinvolge un deputato, soprattutto un deputato del Popolo della Libertà, ex magistrato Alfonso Papa. L'accusa è quella di una rete di informatori. Secondo la procura, Luigi Bisignani e Alfonso Papa avevano organizzato un'associazione che ricercava notizie segrete per favorire o ricattare le persone, tra cui membri delle istituzioni. Secondo tutte le ricostruzioni, per esempio nel Corriere a pagina 6 e 7, gli 007 nella rete dell'ex PM, istituzioni ricattate. Secondo l'accusa c'erano legami con l'ex capo dei servizi segreti Pollari, con Pio Pompa che ricompare. Si utilizzavano anche molte donne in cambio di regali, forse prestazioni sessuali, per cercare di ottenere informazioni su persone. Insomma, un qualcosa di molto, può apparire molto fumoso, può apparire anche molto concreto, di rapporti di potere, di lobby, come si suol dire. Tanto che il Corriere con Luigi Ferrarella va a intervistare Gherardo Colombo, ex magistrato che indagò anche a lungo sulla P2, Colombo, l'eterno ritorno delle logge, sulla politica, il peso letale dei ricatti, questo è il titolo, l'ex PM della P2 di Mani Pulite, tra l'altro dice, questo riguarda anche molti magistrati, l'ultimo caso di Alfonso Papa, e la mia opinione su questo è che se un magistrato intende darsi alla politica dovrebbe rispettare almeno due condizioni. Primo, lasciar passare una quantità di tempo in una certa consistenza tra la fine dell'esercizio delle funzioni giudiziarie e il passaggio in politica. Secondo, la sua scelta deve essere senza ritorno, deve dimettersi dalla magistratura e non deve poter tornare indietro. Non può mettersi in aspettativa, poi magari rientrare in magistratura quando è finito l'incarico politico. Sta di fatto che tutto questo accerchiamento, che è per esempio ben dettagliato da Repubblica, pagina 5, e che riguarda per esempio Gianni Letta, il sottosegretario, la giornata più amara di Gianni in cerca della tela di protezione, vogliono solo infangarmi. Tra l'altro è andato a vedere il presidente della Repubblica Napolitano, ha incontrato anche il presidente della Camera Fini in un colloquio alle 17 ieri, l'appoggio anche da parte di Casini, insomma Gianni Letta che dice mi vogliono infangare, il tentativo non nuovo di macchiarmi, di tirarmi in ballo in vicende alle quali sono del tutto estraneo. Tesse la sua tela anche di rapporti istituzionali per cercare gli appoggi che ha ottenuto. Mentre a Berlusconi viene attribuita questa frase sia da Repubblica sia dalla Stampa, visto tutto questo mi verrebbe voglia di lasciare l'Italia, vendere tutto e andare via da questo paese. Ma, sottolinea Repubblica, la situazione è che se non fosse per l'aggressione che continuerebbero a subire qui i miei figli, liquiderei tutto e me ne andrei all'estero. Mentre il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, su questa vicenda Bisignani fa un'intervista all'Unità dicendo «Anch'io arrivai nel 2007 a Bisignani, facemmo una perquisizione in cui partecipai anch'io a lui direttamente nell'inchiesta Why Not, ed è molto semplice, quel sopralluogo imprime un'accelerazione folle, assolutamente inaspettata, la vicenda che mi porterà nel giro di pochissimo tempo a perdere le funzioni di pubblico ministero». Insomma, dice De Magistris, da quel giorno iniziarono i miei guai. Mentre su questa vicenda Bisignani c'è il Fatto Quotidiano, ripeto, questo titolo in prima pagina, c'è questo lato così anche quasi di colore, che riguarda l'ex direttore generale della RAI, Masi, che intervenne in una puntata da Santoro, vi ricordate, una telefonata anche molto, un faccia a faccia molto duro al telefono, e finita quella apparizione in TV, Marco Lillo e Antonio Massari raccontano a pagina 4, succede che cosa? Che 2 minuti dopo quell'apparizione in TV, la telefonata più surreale è questa, Masi chiama Luigi Bisignani per avere conforto. Mi hai visto? Gli chiede. Come sono andato? Una figura di merda, gli risponde Luigi Bisignani, pare, secondo la ricostruzione del Fatto. E questo è il titolo di prima pagina. Ti sono piaciuto da Santoro? Sì, bella figura di merda. Questo, il Fatto Quotidiano, è l'apertura. Il giorno dopo la telefonata d'anno zero, non qualche minuto dopo, il giorno dopo Masi chiama Bisignani che lo strapazza. Vi segnalo su, per quel che riguarda la politica, perché è un intervento anche politico in questo caso, il ritorno, è da un po' che non appariva, un'intervista a Roberto Saviano, intervistato da Repubblica, da Annalisa Cuzzocrea, a pagina 13, parla del movimento, quello che non definisce più un movimento, ma più un popolo che si è messo in marcia. Qualcosa che sta cambiando in modo radicale, dice Saviano, mette molta paura al governo, quello che avviene è una sorta di mutazione dell'indifferenza, è una moltitudine, un popolo in cammino, parla cioè di tutte queste persone che vogliono cambiare la politica. Per ora la politica in questi anni era manca il lavoro, votami e l'avrai, le strade non vanno bene, hai bisogno di un asilo, appoggiami e forse l'avrai, mentre ora un popolo si è messo in marcia. Riguardo alla vicenda che lo riguarda, di Vieni via con me, della RAI, la RAI perde autorevolezza, dice Saviano, e tra l'altro perde credibilità verso tutti, non solo verso chi non è d'accordo col governo. La RAI lavora contro le sue migliori trasmissioni, Vieni via con me è arrivata a 9 milioni di persone, ha superato il Grande Fratello, non so dove andrò, non so chi avrà il coraggio di ospitarla, se non vorrà farlo nessuno ci inventeremo con Fabio Fazio uno spazio magari all'estero. Insomma, conferma Saviano che il divorzio dalla Rai sembra ormai accertato. Per quel che riguarda la politica, tra l'altro, la Padania, in attesa di Pontida, titola che cosa? I profughi libici tornano a casa, e poi si concentra su quello che è stato ottenuto dalla Lega, una prima risposta, le espulsioni immediate. C'è un provvedimento del Consiglio dei Ministri sulla clandestinità. Clandestini nei centri fino a 18 mesi, così titola Il Sole 24 Ore, pagina 16. Nicoletta Cottone racconta di quello che è stato dato di via libera del governo al disegno di legge, al decreto legge sui rimpatri per evitare infrazioni europee. Si aumenterà appunto a 18 mesi la possibilità di trattenere nei centri di identificazione e espulsione gli immigrati clandestini. Questo è il nuovo decreto legge che tutti i giornali sottolineano, voluto fortemente dalla Lega e voluto da Bossi. Che razza d'accordo, questo è il titolo di prima pagina del Manifesto. Su questo c'è la foto di alcuni immigrati ritratti dietro un cancello di un centro di identificazione e espulsione. Oh, c'è anche da dire questa sex inchiesta che Libero mette in prima pagina, il bunga bunga dell'Italia dei Valori. Vi dedica quattro pagine il quotidiano di Maurizio Belpietro. L'accusa è questa: l'ex responsabile per l'Italia dei Valori dell'Osservatorio Pugliese sulla legalità, Michele Cagnazzo, ha denunciato due onorevoli, il senatore Pedica e l'onorevole Zazzera dell'Italia dei Valori, dicendo hanno ricattato una donna, una 31enne, di cui ci sono solo le iniziali CM, di Taranto. Hanno avuto con lei rapporti sessuali in cambio di promesse di lavoro, lavoro che non è mai arrivato. Ho visto cose indecenti e non potevo stare zitto, dice, intervistato da Libero, questo responsabile, ex responsabile. Ho visto cose, si facevano mandare MMS compromettenti questi due onorevoli da questa donna. Cose, cioè, per esempio, che cosa? Cose da maiali, risponde Questo signore Michele Cagnazzo, intervistato da Libero. La risposta del senatore Pedica avviene sul Messaggero, a pagina 5 di un'intervista. Sex gate nell'IDV, Pedica sotto accusa, ma che bunga bunga da noi. Magari, dice Pedica, magari lo fosse, è un'enorme balla. Ho già denunciato il Cagnazzo, è una boiata pazzesca. E lui mi perseguita sulla pagina Facebook scrivendo da due anni questo: Pedica è un porco, Pedica è un porco, Pedica è un porco, oppure Pedica è un grande porco. Da due anni così, figuratevi e pensate se uno mentalmente presente a se stesso. Vabbè, c'è questa vicenda, bunga bunga nell'Italia dei Valori, titola Libero. Il Sole 24 Ore oggi apre e si concentra per il secondo giorno consecutivo su quello che sta succedendo ad Atene. Aiuti europei in due tempi, questo è il titolo di apertura. A pagina 3, banche, Atene pesa per 130 miliardi. Fissatevi bene in mente, cari ascoltatori, questa cifra. Perché? Perché, come racconta Fabio Pavesi, certo, la polveriera sul punto di esplodere tra tentativi di acciuffare per i capelli Atene, la realtà di una situazione macroeconomica che continua ad avvitarsi. Chiamarla polveriera non è eccessivo. Come definire infatti quella montagna di oltre 300 miliardi di debito su cui i greci sono seduti? Il problema, come racconta bene il Sole 24 Ore, che quando ci sono debiti in un paese dell'Unione Europea, non pensiate che i problemi siano solo greci, i problemi sono di tutti. È un problema di tutti, dato che le obbligazioni elleniche sono sparse per tutta Europa. Pensate che la parte del leone la fanno i francesi, con i loro istituti sono esposti per 53 miliardi, a seguire le banche tedesche con 34 miliardi. Per una volta l'Italia, il suo sistema bancario dove non si parla inglese, secondo la definizione del ministro Tremonti, appare più che virtuosa. L'esposizione è solamente per l'Italia di 2,8 miliardi, meno di un decimo di quella tedesca. Però insomma, questa esposizione europea in Grecia chiaramente crea dei forti problemi. Tra l'altro oggi il Sole 24 Ore voglio ricordare come istruzioni per l'uso, e cioè una pagina molto importante anche per i contribuenti, si concentra sull'IRAP e su tutti quei professionisti medici, avvocati, commercialisti, ma anche piccoli coltivatori diretti, tassisti, tutte categorie alle quali le sentenze stanno riconoscendo il diritto di non pagare l'imposta regionale sulle attività produttive se non hanno i requisiti richiesti, per cui si chiedono pagare o non pagare l'IRAP, visto che si avvicina la scadenza, credo, del 6 luglio, entro cui versare il tributo 2010, beh, tutti i dettagli su chi ha diritto all'esonero o no li trovate sul Sole 24 Ore, pagina 34. A proposito di tasse, io vi ricordo che è un po' il tema del nostro sondaggio, ancora la riforma fiscale. Vi chiediamo, secondo voi, si riusciranno a tagliare questi costi della politica, come promette Tremonti. Ieri Brunetta ha reinsistito: taglieremo le auto blu. Staremo a vedere. Secondo voi ce la faremo stavolta? Beh, a proposito di tasse, il Corriere con Sergio Rizzo, a pagina 17, ha una classifica molto interessante della graduatoria dell'IRPEF pro capite pagate in Italia. Secondo l'IFEL, il centro studi dell'ANCI, l'associazione dei comuni, l'IRPEF più alta pro capite si paga dove? A Basiglio. Beh sì, è il comune più ricco d'Italia, lì c'è Milano 3, come viene definita. Poi dove? Non lo so. Campione d'Italia, ma lì c'è il casinò. E poi Cusago come terzo comune. Comunque 8.094 comuni italiani, la classifica del fisco, quanto si paga di pro capite di IRPEF: Milano 6.357 euro l'anno, Bergamo 5.202, Monza 5.172, Pavia 5.065 euro, insomma quattro città della Lombardia. Roma è un po' dopo, 4.350 euro al residente. La classifica vede una spaccatura abbastanza prevedibile tra nord e sud. Dove si paga meno nel 2009 l'IRPEF pro capite? Due paesini in provincia di Como: Valrezzo 190 euro pro capite di IRPEF statale, Cavarnia 329 euro. La classifica la trovate sul Corriere, a pagina 17. Oh, io questa ve la devo raccontare perché non c'è molto tempo, ma pare, ve l'annuncio solo così, lo scrivono il Fatto Quotidiano e il Riformista, pare che qualche mese fa Paolo Berlusconi, fratello di Silvio Berlusconi, editore del giornale, volesse offrire la direzione del giornale, indovinate a chi? Beh, veramente la persona alla quale meno uno potrebbe pensare se avvezzo a queste cose. Dino Boffo. Cioè quello che il giornale, con il caso Boffo, no? Il famoso metodo Boffo, il veleni su Boffo, l'ex direttore d'Avvenire, pare che via i falchi dal giornale Berlusconi offrì a Boffo la poltrona di Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Retroscena del Riformista, ma anche del Fatto Quotidiano. Ma vi ricordo che alle 8.20 avremo ospite il ministro della salute Ferruccio Fazio, che ci parlerà anche di questo batterio killer e non solo, il batterio che è arrivato in Francia negli hamburger, gravi 7 bimbi. Cercheremo di capire qualcosa alle 8.20 nell'intervista. E infine uno sguardo alla Gazzetta dello Sport, il titolo è Casting Moratti. Oh, cari interisti, non sapete più manco che allenatore prendere, non si sa più niente. Bielsa pare di no, Ancelotti no, Mihajlovic forse, Dunga, Zico, so, Paolo Corleoni, che è il nostro regista, c'è un posto libero da allenatore dell'Inter, affrettati. Precari italiani, c'è un posto libero alla panchina dell'Inter.